come il sindaco di Venaus e il sindaco di Monpantero, tre comuni militarizzati da questo governo, mi associo ai ringraziamenti, vi dico grazie di quello che avete fatto e di quello che state facendo. Avevamo detto, noi in pianura qualche volta l'abbiamo buscate, ma in montagna abbiamo sempre vinto. E poi quello che vediamo, credo che sia uno spettacolo incredibile di folla civile, di folla che ha saputo comportarsi bene. Per conquistare questo presidio hanno fatto 22 feriti, per riconquistarlo noi abbiamo un naso rotto. E quindi ringraziamo anche Nicoletta che ha avuto questo incidente. Ringrazio anche in modo particolare tutti i ragazzi, tutti i giovani che sono stati più volte criticati, più volte incriminati per atti di teppismo da altre parti. Hanno dato una lezione di civiltà.